ultimo dell'anno. Leggiamo nel Vangelo di Luca 12:16-21. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Forse mi chiederete il motivo che mi spinge a leggere questa parabola, proprio l'ultimo giorno dell'anno. La ragione è semplice. In questa occasione ci è la tradizionale abitudine di fare dei bilanci, progetti, programmare l'anno che verrà. In questa parabola si narra di un imprenditore che, avendo realizzato grandi affari, fece progetti e programmi per il futuro. Ora, progettare il proprio futuro non è sbagliato. Anzi, è doveroso. Se si vuole migliorare economicamente, se ci si vuole sposare, se si desidera fare le vacanze, bisogna fare previsioni, programmi, calcoli. Così anche l'uomo della parabola ha fatto progetti per il futuro. Egli è stato però definito da Gesù stolto. Ora, se il giudizio fosse stato emesso da parte di una persona qualsiasi, non vi avrei dato peso, non mi sarei preoccupato più di tanto. Dal momento che però esso è di Gesù, bisogna che lo prendiamo sul serio e che riflettiamo, perché anche noi potremo meritarlo. Definiamo intanto chi è uno stolto. Stolto significa stupido, insensato, sciocco. Qualificando in tal modo qualcuno, noi intendiamo offenderlo. In fondo, ognuno di noi pensa di essere avveduto, di saper fare bene le sue scelte, di non essere insomma uno sciocco, un babbeo o un cretino. Ma l'uomo che Gesù ha chiamato stolto non era affatto uno sciocco o un cretino. Anzi, egli era una persona intelligente, capace, previdente, egli era ricco. Per diventare ricchi bisogna usare il cervello, bisogna saperci fare nella vita. Non si può mandare avanti un'azienda senza avere capacità di comando e amministrative. Egli inoltre era un uomo lungimirante, avveduto, perché pensava al futuro, si preparava per la vecchiaia. Era un uomo che, tutto sommato, aveva tutte le carte in regola per essere felice ora e nel futuro. Ma, nonostante queste qualità positive, Gesù lo ha chiamato stolto. Perché? 1. Ha pianificato il futuro, senza considerare che la morte poteva prenderlo in ogni momento. 2. Ha vissuto senza pensare a Dio. Nei suoi progetti, infatti, Dio non è neppure preso in minima considerazione. 3. Si è preoccupato solo del benessere fisico, tralasciando quello spirituale. 4. Non ha considerato che i beni in suo possesso sono dati da Dio in prestito. Essi debbono essere gestiti, non posseduti. Egli ha detto: i miei raccolti, i miei beni. Sì, nonostante quest'uomo avesse delle capacità, Gesù lo ha considerato un imbecille. Cosa ci insegna tutto questo? Il Signore non ha disprezzato l'uomo della parabola perché era ricco, perché aveva fatto i suoi progetti, o perché era prudente, ma perché egli non era ricco verso Dio. Egli era stolto perché non possedeva la vera ricchezza, che non viene meno, e per non aver fatto i calcoli giusti, per aver pensato a tutto fuorché a Dio. L'atteggiamento dell'uomo della parabola non è originale. Da sempre gli uomini cercano la ricchezza, cercano il benessere. Leggiamo in proposito il Salmo 49, nel quale i figli di Cor fanno una riflessione alquanto sensata. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, sì, plebei e nobili, ricchi e poveri, assieme. La mia bocca proferirà parole di sapienza, e la meditazione del mio cuore porterà intendimento. Porgerò l'orecchio a un proverbio, esporrò il mio enigma con l'arpa. Perché dovrei temere nei giorni dell'avversità, quando mi circonda la malvagità dei miei avversari, quelli che confidano nei loro beni e si gloriano nell'abbondanza della loro ricchezza. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è troppo caro, e il suo costo non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre, e non veda la fossa. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati, e lasciano ad altri i loro beni. Internamente si pensano che le loro case dureranno per sempre, le loro abitazioni siano eterne, e così danno i loro nomi alle terre. Eppure, anche l'uomo che vive nelle ricchezze non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Questo è il comportamento degli stolti e di quelli che li seguono e approvano i loro discorsi. Sono sospinti come pecore verso lo Sheol, la morte li ingoierà e al mattino gli uomini retti regneranno su di loro. Il loro sfarzo svanirà nello Sheol, lontano dalla loro dimora. Ma Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché egli mi accoglierà. Sela, non temere quando uno si arricchisce, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morrà non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà dietro di lui. Anche se in vita egli si riteneva felice, la gente infatti ti loda. Quanto tu prosperi, egli raggiungerà la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive nelle ricchezze senza avere intendimento è simile alle bestie che periscono. Sì, gli uomini si ritengono felici quando possiedono dei beni terreni. Dio, al contrario, paragona queste persone alle bestie. Come un animale mangia, dorme, si riproduce, senza alcun pensiero di Dio. Così è di chi pensa solo alle cose terrene. Queste persone sono definite da Gesù stolte, ovvero non intelligenti. Qualcuno penserà, allora, per essere saggio e intelligente occorre essere poveri, imprudenti, insensati? No, questo è lontano da Dio, come il levante dal ponente. Leggiamo uno dei tanti ordini di Gesù. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano, anzi fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Matteo 6, 19-20. L'ordine di Gesù non è di cercare la povertà, di essere sprovveduti, oppure di non fare progetti, ma d'essere ricchi in Dio. Di fare progetti relativi ai beni che non possono essere rubati, di mirare alla ricchezza che non viene meno. Non è sciocco colui che lascia quello che non può conservare, per acquisire quello che non può perdere. Per questo Gesù invita a cercare prima le cose di Dio. Egli non ha detto che le cose di questa vita siano da disprezzare, ma di cercare prima di tutto quelle di Dio. E, per rendere sicuri i cuori titubanti, Gesù ha aggiunto, «Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro, e chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio li veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Poiché sono i gentili, quelli che cercano tutte queste cose, il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, 25-34. Queste parole, ormai note, devono diventare una realtà giornaliera. Dobbiamo occuparci ogni giorno di ciò che più c'è bisogno, dobbiamo praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è buono ed accettevole davanti a Dio. 1 Timoteo 5:4. Ma senza ansietà, quasi che noi fossimo in grado di mantenere in vita noi stessi e il prossimo. Il nostro Dio può e vuole supplire ad ogni nostro bisogno, e non ci è nulla di misero nella sua provvidenza. Cercando noi prima il suo regno, egli provvederà ad ogni nostro bisogno. Ma, come scrisse A. V. Tozer, Dio non aiuterà gli uomini a conseguire scopi che, una volta raggiunti, usurpano il posto che egli con ogni diritto dovrebbe avere nel loro interesse e affetto. Dobbiamo riconoscere umilmente che il benessere e il progresso costituiscono un serio pericolo per noi. Proprio per questo sono arrivato a vedere il progresso e il benessere in un'ottica che mi era sfuggita, fino a quando il Signore Dio non mi ha aperto gli occhi. Forse tu la pensi diversamente. In un periodico ho letto le seguenti riflessioni. Che cosa pensi quando, nel nome di una industrializzazione frenetica e di un progresso senza limiti, i 5 miliardi di tonnellate d'aria di cui dispongono 4 miliardi di uomini diventano sempre di più una massa avvelenata? Che cosa pensi del fatto che 40 litri di benzina possono esalare fino a 20 grammi di piombo nell'atmosfera? Che cosa di un solo aereo a reazione del tipo Boeing 707 brucia 35 tonnellate d'ossigeno per ogni attraversata dell'Atlantico, e che questo corrisponde a ciò che produce in una notte una foresta di 17.000 ettari? Che pensi del fatto, provato scientificamente, che dall'Artico alle oscure foreste vergini dell'Africa e dell'America del Sud non ci è più aria veramente pura? Mi chiedo se tu sia ancora favorevole al progresso selvaggio, leggendo che il 70% dell'ossigeno proviene dal plancton costituito da microorganismi marini, e venendo a conoscenza che l'uomo ha inquinato il mare con 8 milioni di tonnellate di carburante, 20.000 tonnellate di piombo, una quantità quasi incalcolabile di mercurio, cadmio, fosfati e concimi che hanno ridotto la vita del 30%. A tutto ciò naturalmente si aggiungono gli esperimenti con le bombe atomiche, all'idrogeno, al cobalto e balistiche. Non si tratta solamente dell'intossicazione dell'aria, ma della distruzione delle riserve d'ossigeno, indispensabili alla vita. Inoltre, dobbiamo onestamente ammettere che il progresso non uccide soltanto l'uomo fisicamente, ma anche spiritualmente. Siamo abituati a chiamare la Svezia il giardino del Nord, il paradiso europeo. Nessun altro paese al mondo, infatti, è organizzato con tanta efficacia per procurare comodità e benessere al cittadino, dalla nascita fino alla morte. Eppure su 8 milioni di svedesi, 2.000 persone ogni anno si tolgono la vita e 20.000 tentano il suicidio. Una di queste, salvata in extremis, disse di aver visto nel suicidio l'ultima emozionante avventura di un'esistenza che il benessere rende troppo sicura e troppo monotona. Questo ci dimostra che la tanto discussa civiltà del benessere e il dilagante materialismo che l'accompagna non creano un clima favorevole per lo spirito dell'uomo. Senza accorgercene, a volte ci troviamo a lamentarci, a mormorare quando vengono meno le comodità e gli agidi che questa società ci offre. Con saggezza divina a questo riguardo, Paolo scriveva al suo figliolo Timoteo: ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portar via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Chi di noi non ha da coprirsi? Chi di noi non ha il minimo indispensabile per nutrirsi? E è vero che vi sono milioni di persone che lottano per la sopravvivenza, ma questo era vero anche al tempo di Gesù. Il volere di Dio è che coloro che hanno molto di più per la sopravvivenza siano felici, lo ringrazino e si accontentino di quello che hanno. Ma non è facile, e non lo è stato neppure per un uomo come l'Apostolo Paolo, perché scrisse ai Filippesi: poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo, so essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Filippesi 4:11. 13. La contentezza d'animo non fa parte dell'elenco dei doni dello Spirito Santo. Essa, al contrario, è un esercizio d'ogni giorno. Chi si lascerà ammaestrare da Dio, mediante le circostanze da Lui predisposte, potrà dire, unito all'Apostolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cioè non solo egli riuscirà ad adattarsi ad una società del benessere, ma anche alle necessità. Che possiamo nel prossimo anno essere degli uomini saggi, lasciando il primo posto a Dio, per non essere chiamati stolti, e per ricevere le vere ricchezze, quelle che durano per l'eternità. Dicembre 2000 Ellero,